l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa raccontata attraverso le storie e le persone. Cerchiamo di andare oltre l'attualità, vogliamo raccontarvi un'altra Europa. Le coordinate per interagire con noi via SMS al 349-238-6666, attraverso la mail l'altraeuropa@radio24.it oppure il nostro profilo Facebook facebook.com/l'altraeuropa, dove in diretta metteremo anche tutti i link legati agli argomenti che andiamo a trattare. Vi ricordo che è un programma in collaborazione con Euronet, questa rete europea che ci permette di avere veramente uno sguardo internazionale su tantissime tematiche, e anche oggi insomma avremo il nostro tema centrale che tenteremo di sfiorare da tanti punti di vista diversi, anche con tante altre lingue che appunto accompagnano la nostra. Ma partiamo dall'Inghilterra con l'ultima beffa dell'imperatore. Crisi, non sono i tagli annunciati, anticipati dal primo ministro Cameron, ma a tenere le prime pagine dei quotidiani inglesi in questi giorni. C'è infatti una storia di emotività collettiva legata a questo cervo, il cervo più straordinario d'Inghilterra, un cervo mitico alto 3 metri. Beh, pare sia stato ucciso, forse no. Il caso è stato seguito in maniera molto divertente anche dal corrispondente da Londra della Stampa, Andrea Malaguti, che è qua con noi. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, lo hanno ammazzato o no questo cervo? Ah, è una spettacolare domanda. In questo momento tutto l'Inghilterra se lo sta chiedendo. Allora, probabilmente l'imperatore è stato ucciso. Dopodiché, siccome nessuno ha visto realmente il corpo dell'imperatore morto, ma c'è soltanto un testimone che avrebbe visto da lontano che è stato trascinato via, e soprattutto l'imperatore ormai da un paio di settimane non appare più nel parco di Exmoor, c'è qualcuno che ritiene che in realtà la sua morte sia una specie di leggenda creata addirittura ad arte nel tentativo di proteggerlo dai cacciatori, non solo dai cacciatori ma anche dai milionari che arrivano da tutto il mondo nel parco di Exmoor per cercare trofei, e i cervi del parco di Exmoor sono particolarmente belli, particolarmente grandi, particolarmente maestosi, e l'imperatore era il più bello di tutti. Era o è, non si sa, perché questa è diventata ormai una storia quasi disneyana, nel senso che c'è chi lo vede apparire la notte, c'è chi lo vede passare in mezzo ai campi. Io tenderei a pensare che in effetti l'imperatore è stato ucciso, però tutti aspettano il lieto fine. Comunque noi abbiamo contattato i vertici del Parco Nazionale di Exmoor, ma ci hanno detto che non sono autorizzati a parlare, quindi insomma il caso è assolutamente aperto. Grazie davvero Andrea, complimenti per il tuo pezzo, lo potete trovare, potete trovare il link sulle nostre pagine in Facebook. Ciao, buon lavoro. Si può realizzare una canzone anche utilizzando i testi, gli epitafi satirici trovati su delle lapidi, e questo è solo uno dei tanti aspetti che riguarda questo particolare cimitero che abbiamo scovato in un angolo bellissimo dell'Europa. Anche noi insomma volevamo dare il nostro contributo alla giornata dei defunti che si avvicina, e abbiamo scoperto questo cimitero allegro, con tante virgolette, un cimitero artistico, una storia fantastica. È il cimitero allegro di Sapienza, siamo in Romania, e per capire bene cos'è il significato storico e non solo, anche antropologico, che è legato a questo cimitero, abbiamo invitato una giornalista rumena che vive in Italia ma è originaria proprio di quella zona, quindi conosce benissimo il cimitero perché l'ha studiato e l'ha visitato più volte. Diamo il benvenuto a Giulia Varsta. Ciao Giulia. Virsta, scusa. Giulia Virsta, il problema sai qual è? Anche con il cimitero sì. Si pronuncia Sapienza, perché dopo la rivoluzione, dopo 90, la I con l'accento circonflesso è diventato A con l'accento circonflesso, però si legge U, solo che giustamente voi non lo sapete, si legge A, allora cambia talmente tutto. Però e ci metti rovesse e vis punta, se no... Ok, no, adesso faremo star male i sapunsegni che sono dappertutto nel mondo. Allora, ecco. Giulia, si può definire allegro o è una parola è troppo leggera, è un'etichetta troppo leggera da abbinare a questo cimitero? No, non direi che è leggera. Sì, si chiama posta veste, cioè allegro, direi anche gioioso, forse anche un altro sinonimo in italiano. Sì. Perché immaginatevi che entrate in un cimitero dove da noi in Maramureș, se ti posso completare, il villaggio Săpânța, sì, si trova nella regione di Maramureș, che è l'unica oasi di civiltà antica in un mare di modernità e dei slavi, perché siamo contornati un po' delle comunità slave. E la cosa bella, cioè è unico al mondo. È unico al mondo. Allora, noi in Maramureș tutti i villaggi sono hanno una chiesa ortodossa, sì, e sono accanto, cioè la chiesa si trova nel cimitero o il cimitero si costruisce intorno alla chiesa. E quando si entra in questo cimitero, una volta era piccolo, ormai si è allargato, diciamo un po' per anche per provocare la morte, perché no? O per convivere anche con la morte e con i nostri cari che sono ogni mattina quando si andava in chiesa, cioè ogni mattina, ogni domenica quando si andava in chiesa, li trovavi, cioè non era il sentimento di anche di tristezza, ma forse questo che trasmetteva l'allegria. Mm-hmm. Allora, se mi fai spiegare dall'inizio così i nostri, certo, ascoltatori avranno un'idea di perché si chiama così. È stato, chiamiamolo, inventato tra le virgolette da Ioan Stan Pătraș, che nel 1935-38, quando era un giovane povero, faccio una parentesi, è un villaggio abbastanza ricco, sì, Săpânța. Lui era povero e si è inventato di fare queste, di scolpire le croci, sono abbastanza grandi, non semplici croci come le vediamo magari nei cimiteri qui o dalle altre parti, le croci grandi quasi quanto un'altezza d'uomo, cioè sono 60 almeno, 1,50, ma pesanti, è stato scolpito e poi dipinto, cioè pieno di, è coloratissimo, invece il colore di fondo che è rimasto unico, che lo continuano poi i suoi discepoli, diciamo, i suoi allievi, ecco, sì, è un blu notte, chiamiamolo, sì, blu royale, okay, blu notte, sì, sì, hai dato l'idea. Tra l'altro, scusa Giulia, invito gli ascoltatori, se avete la possibilità di accedere ad internet, ho messo già nelle nostre pagine in Facebook il link che permette di vedere tantissime fotografie scattate all'interno del cimitero, dove sì, ci sono queste croci decorate, disegnate, trasmettono veramente allegria, però non è solo una allegria, ecco, visiva, perché ci sono anche queste scritte molto curiose. Ecco, il colore, cioè oltre il colore, che è quello che ci dà allegria, diciamo, anche come primo impatto quando si entra, però la cosa unica che ha fatto come l'ha scelto come unico al mondo è che ciascuna croce, cioè ciascun defunto ha una sua, chiamiamola mini poesia, sì, un epitafo, dove si racconta la sua vita, praticamente quello che ha fatto lui nella vita. E poi è diventato, grazie a un folclorista americano, poi tanti francesi che sono negli anni venuti, e si è parlato di questo, poi lui è diventato famoso anche al cimitero e poi tuttora si è sviluppato anche grazie al cimitero. Mm-hmm. E sono appunto degli epitafi, delle poesie in rima da 7-17 versi, rispettose della morte, ma l'idea è proprio quella di prenderla un po' in giro, no? Di dare, sì, comunque ti leggo una bellissima, sì, che grazie. Direi che è bella bella bella, che parla, cioè racconta la vita di un ubriacone, ecco. Sì. Te lo leggo proprio in dialetto, perché è molto bello, magari te la traduco pure. Magari, okay. Sì, grazie. Suica e curat venin, e aduce plâns și chin, că și mie mi-o adus moartea sub picior m-o pus. Cui place țuica bine, va păți așa ca mine, că eu țuica am iubit, cu ea în mână am murit. Aici odihnește Dumitru Holdiș, a trăit 45 de ani, mort de moarte forțată, la 45 de ani, în 1958. Allora, Țuica e, cioè, si tradurrebbe grappa, ma non è la grappa, perché è un distillato che si fa solo da noi, cioè solo in Maramuresh, sì, che ha quasi 80 gradi, e di prugne o mele, prugne pere, dipende dall'annata, uh-huh, e si distilla due volte, cioè non possiamo chiamarla grappa, perché non è vinaccia. Ok. Ecco, però dirò grappa ora. Va bene. Zuika, ecco Zuika. Allora, Zuika è veleno puro, che porta pianto e star male. Sì. Anche a me li ha portati. La morte mi ha messo sotto i piedi. Coloro che amano la buona Zuika come me patiranno, perché io la grappa ho amato, con lei in mano sono morto. È un inno alla grappa. Qui giace Dumitru Holdish, che ha vissuto 45 anni, morto nel 1958. Ecco. Ma scusa Giulia, ma è comunque ovviamente meta turistica, immagino, sì, da tutta la nazione, ma da tutta l'Europa. Sì. Però è ancora un cimitero aperto, cioè ci sono persone che scelgono di, certo, di essere deposte lì. Però adesso deposte lì. Costerà molto, perché siccome è piccolo, cioè è proprio al centro del villaggio, non è fuori, da noi le chiese sono al centro. E i piccoli cimiteri si sono allargati un po', però forse costa un po' tanto ora di essere lì, però certo è aperto. Uh-huh. Ascolta, ma questo cimitero rispecchia un po' lo spirito dei rumeni? Cioè siete comunque un popolo autoironico? Sì, sì, sì. La cosa che ci ha salvati nei anni bui, cioè di andare avanti, di avere quel credo che non ci ha... lasciati mai in questi anni di dittatura, è stato proprio l'ironia. E poi vorrei fare una distinzione, giusto perché parlo di patriottismo locale, no? Certo. Maramures è una, ripeto, è una terra direi baciata da Dio, è una terra meravigliosa, con le chiese in legno ancora del 200-300, sono le ultime rimaste in piedi, cioè tutte in legno, con delle pitture con le icone dipinte sul legno dentro, cioè direttamente come potrei dire? Sì, comunque cioè, sono delle chiese che sono fatte, alcune di tre tronchi di alberi e basta. Quindi insomma molto suggestive, immagino, anche dal punto di vista architettonico. Sono alcune rimaste dopo l'ultima invasione dei barbari nel 1717. Quando hanno incendiato tutte le chiese, sono rimaste alcune nei piccoli villaggi di Valle Amare e Valle Isei, sì, che sono ancora in piedi, con dei cimiteri con le croci celtiche. La cosa bella, ecco, si dice che i maramuresceni sono passati celti. Allora, Maramures è la Dacia libera, dove non siete mai arrivati voi a conquistarci, di questa ne sono fierissima. Giulia, grazie davvero per aversi fatto questa fotografia, sia del cimitero sia di tutta la zona. Io vi aspetto e quando volete vi porto almeno immaginariamente, perché vale la pena. Vi vedrete, è una terra dove ti puoi caricare. Se uno va in vacanza solo per 3 giorni, torna con le batterie cariche per un anno di lavoro. Ci ritroveremo sicuramente. Un grazie a Giulia Virsda, giusto? Yes. Ho detto sì, Virsda. Giornalista rumena che vive qua in Italia. Ciao e buon sabato, grazie davvero. A te. Europost-it. Il fumetto è di scena a Bucarest. È appena iniziato e durerà quasi un mese lo European Comic Saloon di Bucarest. Fino al 21 novembre la capitale europea ospiterà questo festival del fumetto, che propone un calendario di mostre, workshop, proiezioni ed incontri con gli artisti europei del fumetto. Uno spazio riservato anche ai dilettanti che vogliono presentare le proprie creazioni. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora all'altra Europa. Continuiamo a parlare di contaminazioni culturali all'interno dell'Europa, partendo dai cimiteri, perché sulle pagine di Repubblica di venerdì, di ieri, si raccontava di questo cimitero che verrà realizzato a Gorgonzola, quindi nell'Interland milanese, disegnato e progettato da due architetti francesi. E ci piaceva quest'idea, gli artisti si chiamano Anne e Patrick Poirier, e ora c'è una mostra a Gorgonzola in queste settimane dove viene presentato il progetto, si stanno cercando i finanziamenti, architettura del ricordo, e volevamo capire perché due artisti francesi scelgono proprio l'Italia per realizzare questo segno concreto di memoria. Diamo quindi il benvenuto ad Anne Poirier. Ciao Anne, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Grazie dell'accoglienza. Grazie a te. Un cimitero giardino, un cimitero d'autore, per parlare di memoria, con questo cimitero che assomiglia a una foglia di quercia. Vi siete ispirati alla natura per il vostro progetto, giusto? Sì, sì, perché noi da sempre ci ispiriamo della natura. La natura è molto presente nel nostro lavoro. Facciamo delle erbarie, raccogliamo le piante. Quando ci hanno richiesto di fare questo cimitero, siamo stati sul terreno e abbiamo, come sempre, raccolto le piante. E fra queste piante, può darsi portata dal vento, c'era anche una foglia di quercia. E abbiamo deciso di prendere questa forma di foglio come pianta, come piano regolatore del cimitero. Perché? Prima perché ha un simbolismo molto forte la querce, che tutti conoscono. Certo. La querce è l'albero di Zeus e la pianta dell'albero che fa il centro del mondo, che rimanda a tante mitologie diverse di diversi paesi, dunque un simbolo molto forte, e anche perché volevamo fare una cosa che sia dolce, che non sia un cimitero tutto a angoli, tutto a razionalità, come si vede oggi nella maggior parte dei cimiteri nel mondo. Si vedono solo delle linee dritte, acute, tagliante, e questo non volevamo. Volevamo fare una cosa poetica, dolce, accogliente, e non che non ti fa paura, ma che ti supporta, che sia materna come la terra materna, perché in fondo la morte è il ritorno alla terra, e questa terra deve essere non di cemento, non di pietra, ma di dolcezza. Mm-hmm. Anne, in effetti è quasi accogliente, che sembra strano, no? da dire per un cimitero, però così è un cimitero che sarà aperto a tutti i culti, e si sta cercando il finanziamento. Adesso sono circa 10 milioni gli euro necessari per realizzarlo. Tu sei architetto, il tuo compagno, tuo marito è archeologo, quindi da questa fusione è nato il progetto. Ma voi vivete in Italia? Noi abbiamo vissuto molto a lungo in Italia, perché abbiamo avuto la fortuna di vincere il premio di Roma quando eravamo giovani, e da lì, cioè negli anni 60, abbiamo avuto una casa in Italia per 30 anni in Umbria, abbiamo vissuto quasi 5 anni a Roma, siamo innamorati dell'Italia, per noi è la seconda patria, e abbiamo approfittato per visitare tutti i posti dell'archeologia possibili, e così ci siamo molto anche ispirati delle filosofie antiche delle necropoli, tipo Cerveteri, ad esempio, che è stato molto uno dei posti che io preferisco. Mm-hmm. E ascolta, quando avete proposto questo progetto, qual è stata l'accoglienza, e il fatto di essere stranieri vi ha favorito, nel senso che c'è stato anche quel tocco magari esotico che ha colpito? Ma questo non si sa mai, insomma. Ieri abbiamo aperto la mostra e devo dire che l'accoglienza col pubblico è stata ottima, e tutti i contatti che abbiamo avuti con la gente un po' specialista, sia con la gente locale, è stata molto positiva, perché penso che hanno capito, perché abbiamo messo tanti disegni, tanti modelli, esempi di materiali, per fare capire veramente cosa sarà finito questo cimitero, e io penso che la gente ha accolto bene il progetto, nonostante che siamo francesi, ma l'Italia è un paese molto aperto e a noi è stato sempre aperto, è un paese che ci ha fatto fare tante cose nella nostra vita. E insomma è una testimonianza che ci piace e siamo contenti insomma che la contaminazione culturale possa passare anche attraverso progetti di questo tipo che sono innovativi perché proiettati verso il futuro ma fortemente ancorati anche alle radici. Questa cosa è bella e abbiamo voluto parlarne. Grazie davvero Anna e complimenti a te e complimenti a tuo marito per il progetto e in bocca al lupo perché insomma siete solo all'inizio, quindi il percorso è ancora sì, lungo. Adesso bisogna realizzarlo. Sì. Grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro davvero. Tra l'altro, legato a questo argomento, vi volevo lanciare un'importante iniziativa. È un'importante iniziativa del domenicale del Sole 24 Ore. Uscirà infatti domani sul domenicale l'inserto di cultura del quotidiano, del nostro quotidiano, un articolo sulla necropoli vaticana e nella quale è stato scoperto come furono conservati i resti di San Pietro. Se ne parla domani sul domenicale, abbiamo avuto la possibilità di vedere il servizio in anteprima ed è davvero molto molto interessante. Europostet. Consumatori di tutta Europa, tutelatevi. Vincere un premio e non riceverlo, farsi ingannare da presunte offerte speciali, essere vittime di vere e proprie truffe commerciali. A molti consumatori è successo. Per questo motivo la Commissione europea ha lanciato il sito Is It Fair, un portale che aiuta i consumatori truffati, spiegando anche quali pratiche commerciali siano sleali e proibite dalle leggi europee. Per comprare in sicurezza e proteggersi dagli inganni, visitate quindi il sito isitfair.eu, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, italiano compreso. www.euronet.eu è il sito ufficiale invece del network a cui partecipiamo con Radio 24, di cui fa parte l'Altra Europa. Ogni settimana trattiamo anche un tema comune per avere prospettive e comuni. La scorsa settimana abbiamo parlato dei paesi in crisi, dei PIGS, dei cosiddetti PIGS, abbiamo sfiorato il tema dell'immigrazione. Questa settimana il tema comune che andremo ad affrontare è quella dell'energia nucleare. Nucleare sì, nucleare no, un dilemma che ci accompagna da anni. Non abbiamo la presunzione di darvi una risposta. La riflessione che si sta facendo è: l'Europa può fare a meno dell'energia nucleare? Qual è la posizione degli stati membri rispetto al nucleare? Ci sono posizioni molto diverse. Volevamo andare al di là della logica nucleare sì perché serve, nucleare no perché è pericoloso. Quindi per proporvi una visione diversa, una lettura altra, abbiamo invitato il giornalista del Sole 24 Ore, Jacopo Giliberto, che è un esperto di tematiche legate all'energia e all'ambiente, ha anche un bellissimo blog di cui poi vi darò le coordinate, e autore di un pezzo che è uscito un mesetto fa intitolato L'incertezza frena l'atomo, che secondo me è un'ottima lettura dell'argomento. Ciao Jacopo, benvenuto all'Altra Europa. Benvenuto Federico, cioè benvenuto, grazie Federico e un saluto a tutti voi che mi state ascoltando. Tra l'altro Jacopo, prima di andare a sfiorare l'argomento, sono andato a leggere il tuo blog dove tu appunto tratti di tematiche legate all'ambiente, lo do subito l'indirizzo che è jacopogilberto.blog.ilsole24ore.com e stai facendo questa sorta di fiction, questa storia a puntate sulla vita su una piattaforma petrolifera? Sì, mi è successo la settimana passata di visitare una piattaforma italiana che si trova a sud della Sicilia, nel canale di Sicilia, verso l'Africa, e mi è piaciuto molto raccontare, andare a vedere alle origini, alle radici dell'energia, cioè l'energia che noi tutti conosciamo come consumatori, andare a vedere, a toccare fisicamente con mano il petrolio, che cos'è, dove si trova, come è fatto, come, chi ci lavora, per portarci questo petrolio. E hai trovato anche tanta umanità però, perché insomma lasci spazio anche a quella che è la quotidianità su questa piattaforma. È praticamente un monastero di persone che vivono in questo romitaggio in mezzo al mare, fermi a guardare e a controllare, a gestire questa estrazione di petrolio. Sono squadre di persone che si conoscono tutte, passano anni e anni su questa piccola città in mezzo al mare. Jacopo, torniamo invece al nostro argomento, il nucleare, il rapporto tra Europa e nucleare, che è un rapporto complicato, dove ogni nazione, comunque ci sono quelle, vedi la Francia, che è assolutamente pro-nucleare, no? Da anni c'ha tantissime centrali, altre invece, tipo l'Italia, dove si parla di rinascimento del nucleare. Non credo ci sia una risposta, o forse tu ce l'hai, alla domanda: l'Europa può fare a meno del nucleare? Qual è il tuo pensiero? La risposta è quasi ovvia. Ovviamente oggi l'Europa non può fare a meno del nucleare che ha già. Se si dovessero spegnere di colpo le centrali, che dipende da paese a paese, ce ne sono alcuni che, come la Francia, che marciano a energia atomica e hanno una sessantina di reattori, ci sono paesi che ne hanno molte meno, in alcuni paesi danno un contributo del 20-30%, ci sono paesi che assolutamente hanno rinunciato. Sto pensando non solo all'Italia, ce n'è anche altri stati europei, la Grecia o la Norvegia, che non hanno centrali nucleari. Dipende dalle varie politiche, dalle storie energetiche che hanno avuto nel loro passato, però è chiaro che non si può spegnere di colpo il nucleare, vorrebbe dire dover dare energia agli europei con altre tecnologie, inventarsi qualcos'altro, che potrebbero essere tecnologie anche convenzionali, però con tutti i problemi ambientali che conosciamo. Ecco, tu hai intitolato il tuo articolo "L'incertezza frena l'atomo". Qual è questa incertezza? L'incertezza è dovuta al fatto che per sua natura la tecnologia atomica richiede fortissimi investimenti, più di ogni altra tecnologia, sia per l'impianto in quanto tale, sia per tutta la macchina che noi non vediamo ma che è percepibile, tutta la macchina che sta attorno alla tecnologia nucleare, quindi un'agenzia per la sicurezza e per il controllo, un sistema di gestione delle scorie e così via. Sono costi molto alti, ha il vantaggio viceversa l'energia nucleare di avere poi dei costi di gestione molto bassi, perché il combustibile è relativamente economico. Una carica di combustibile nucleare, cioè di uranio, in una centrale dura anni e anni. Sì. Non è come una centrale a gas che efficiente, poco costosa, ma costosa nella costruzione, ma molto costosa poi nel bruciare tutti i giorni enormi quantità di metano, che è piuttosto pregiato. Ecco, il nucleare, al contrario di una centrale a gas che costa poco, ma poi la gestione è molto cara, il nucleare costa molto e poi una gestione molto più economica, è un sistema complessivo di gestione della sicurezza e così via che è molto caro. Che cosa richiede un investimento così alto? Richiede certezza dei tempi di rientro e quindi certezza di tariffe, certezza normativa, richiede una economia di scala. Faccio un esempio: costituire un'agenzia più un sistema, agenzia di sicurezza nucleare, più un sistema di gestione delle scorie, ha senso, ha un costo, ha un valore, se lo si fa per una centrale nucleare. Sì. Se lo si fa per 20 centrali nucleari, come per esempio una ventina sono in Germania, una cinquantina come in Francia, o per le 100 che sta progettando la Cina. È chiaro che questa macchina costa, sul singolo kilowattora prodotto, costa in molto diverso. L'economia di scala, i 100 reattori o la sessantina, settantina di reattori della Francia, o i 100 reattori cinesi, permettono di distribuire questo costo su moltissimi più kilowattora e quindi di non produrre un aumento, anzi, è addirittura conveniente. Quando invece tutta questa macchina che sta attorno al nucleare viene distribuita su un numero limitato di kilowattora prodotti, allora la tariffa comincia a diventare impegnativa. Ecco, le economie di scala aiutano il nucleare, la certezza dei tempi di rientro aiuta il nucleare, un sistema normativo e burocratico efficiente aiuta il nucleare, un mercato molto stabile tariffe molto regolate, una borsa elettrica molto prevedibile aiutano al nucleare. Viceversa, un mercato competitivo, aggressivo, con oscillazioni di prezzo per la vendita dell'elettricità, oscillazioni molto importanti e veloci, non consentono quella programmazione, rendono difficile il rientro dei tempi e così via. Ecco, per questo è questa insomma l'incertezza che insomma che sei andato al di là nella tua riflessione appunto al problema scorie, al problema sicurezza, problemi fondamentali, però ci piace questa lettura e vi invito a leggere comunque l'articolo che potete trovare anche sul sito jacopogilberto.blog.ilsole24ore.com. E l'ultimo viaggio europeo in cui vi accompagniamo oggi lo facciamo attraverso gli autoritratti, portandovi una storia, un'esperienza bellissima, un'esperienza che nasce in Spagna, a cavallo tra la Spagna e l'Italia, ma poi costole in tutta Europa, soprattutto nel nord Europa, in Finlandia. Si intitola Someone to Love, è un libro che verrà presentato in Spagna il 4 di novembre, è la storia che racconta, è una biografia di una fotografa, ma anche un metodo, come fare terapia, come fare formazione, come crescere utilizzando come metodologia l'autoritratto, il fotografarsi da solo. Metodo inventato e libro scritto da Cristina Nunez, che è qua con noi. Ciao Cristina. Ciao Federico, come stai? Molto bene, grazie. E tu? Bene, bene. Allora, se ascolterete, se sentirete dei click durante l'intervista, perché so che Cristina ama fotografarsi, anche mentre fa queste cose. Cristina, allora, uscirà questo libro che presenterai dove il 4 novembre? Presso una galleria che si chiama The Private Space, che è anche editori, sono anche editori e mi pubblicano anche questo libro, Someone to Love, a Barcellona. Perfetto. Sì, sì. Poi nei prossimi mesi verrà tradotto anche in italiano e già ti invitiamo in studio poi quando farai la presentazione anche in Italia del libro. Benissimo. Ci puoi veramente accennare alla tua esperienza? Cosa vuol dire portare l'autoritratto come tecnica in giro per l'Europa? E questo è stato, diciamo, partendo proprio da questi 22 anni che mi fotografo, no? Quindi io ho iniziato a fotografarmi nell'88 dopo 5 anni di dipendenza con l'eroina e quindi avevo bisogno di capire un po' chi ero, capire anche perché avevo fatto queste esperienze. E fotografandomi per tanti anni, all'inizio era un modo così di cercarmi, dopo ho capito che poi era un metodo che stavo utilizzando e quindi ero veramente molto felice di poterlo condividere con altri, vedendo che agli altri anche faceva del bene, è stato per me un regalo. Mm-hmm. E quindi viaggio dappertutto, cerco proprio di diffondere questo metodo perché ho capito che è una cosa molto potente. Quindi unissi veramente arte a terapia. Una volta ti ho telefonato, eri in Finlandia dentro a un ospedale che stai facendo autoritratti. So che adesso presto lavorerai all'interno del carcere di Barcellona, se non sbaglio. Sì. Cosa vuol dire? Perché aiuta il fotografarsi, il farsi l'autoritratto? Allora, senz'altro è uno sguardo che uno si dà senza giudizio, per esprimere delle emozioni, per esprimere delle cose che uno magari nella vita non può esprimere, ma soprattutto è anche un modo di guardare queste immagini per trovarne proprio la forza e trovare delle cose che uno magari non era a conoscenza. Quindi è un po' un riscoprirsi attraverso queste immagini che in qualche modo si può anche dire che non ci definiscono, no? La fotografia non ci definisce. Cioè, la fotografia esprime tutto quello che siamo e siamo tutto, siamo tante cose in ogni momento. Cristina, domanda impegnativa, lo so, ma sì. Hai trovato un tratto europeo davanti alla macchina fotografica? Ci sono differenze sostanziali? Cioè, l'italiano è diverso dal finlandese o è diverso dallo spagnolo quando si deve fotografare da solo? Interessante. No, è interessante perché effettivamente anch'io rifletto molto su questo. Io adoro lavorare in Finlandia, per esempio, perché loro, allora, in apparenza loro sono persone che non esprimono emozioni all'esterno, non le comunicano facilmente, diciamo, no? Come molti nordici in Europa. Però sono visibili comunque nel volto. cioè anche se non le tirano fuori come facciamo noi latini, no? Sì. Che più facilmente esprimiamo e comunichiamo le nostre emozioni, loro però nel volto sono visibili e quindi in queste immagini loro esprimono delle emozioni che normalmente non escono e che forse anche in quel momento non escono, ma vengono comunque comunicate, e questa è una competenza, è una cosa molto interessante. Nel tuo libro, oltre a spiegare il metodo, hai raccolto tantissimi autoritratti, quindi è veramente un viaggio in Europa attraverso le facce delle persone. Più di 1000. Più di 1000 autoritratti? Sì, più di 1000 autoritratti condivisi, cioè più di 1000 persone sono passate nel mio studio a scattarsi queste immagini. Infatti questo mi ha aiutato molto a capire molte cose dell'essere umano oggi. È stato proprio uno studio della natura umana. Ecco, ed è diventa una sorta di terapia collettiva, cioè io sfogliando questi autoritratti, cosa vedo? Eh sì, perché in realtà, allora, intanto nel libro potrete vedere proprio tantissime immagini di questi partecipanti, tutti i partecipanti ai miei workshop. Ma il fatto è che è una terapia collettiva perché ognuno che fa questo esercizio non lo fa solo per sé, perché queste immagini, l'autoritratto io sostengo è l'immagine più comunicativa, perché ti sta dicendo che questa mia emozione è anche la tua emozione. E quindi in realtà siamo portavoci, quelli che lo facciamo, anche per gli altri, cioè quando percepisci questa immagine tu ti unisci con quella persona e fai anche tu una sorta di piccolo viaggio identitario attraverso le tue stesse emozioni, se ti lasci ovviamente penetrare dall'immagine. Certo. Someone to Love, il titolo del libro, il 4 novembre verrà presentato a Barcellona, ci sarà anche un workshop gratuito, quindi se siete da quelle parti insomma avrete la fortuna di incontrare o conoscere Cristina, ma ci ritroveremo sicuramente in Italia nei prossimi mesi. Cristina, vuoi dare un sito per tutte le informazioni? Sì, senz'altro. Allora è www.theprivatespacebcn come Barcellona.com, quindi The Private Private Space bcn.com, e lì si trova appunto è il sito di questa galleria, che tra l'altro è molto interessante, che copre tutto il processo creativo. Perfetto. Dal workshop alla stampa e alla esposizione a Barcellona. Benissimo, grazie davvero Cristina, in bocca al lupo, ci ritroveremo qua, e tutti i link, tutte le coordinate le potete ritrovare sul nostro profilo Facebook, facebook.com/l'altraeuropa. Invece la puntata sarà in podcast da lunedì dal nostro sito radio24.it. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli e a Margherita Ina, che con me hanno scritto il programma, Filippa Oreggio la parte tecnica, e a voi per essere stati in nostra compagnia. Ancora ciao da Federico Taddia.